Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Maltempo, 8 morti e 6 dispersi, 30 aziende con milioni di danni, dice a Radio 24 Confindustria La Spezia. La rabbia della gente ai nostri microfoni, tragedia annunciata come sempre. L'Italia è la crisi, nessuna lettera di impegno è arrivata ancora a Bruxelles. Draghi, lettera passo importante, ma ora servono le riforme. Caso Fini, scontro alla Camera, seduta sospesa, la Lega urla dimissioni. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Partiamo sempre dal maltempo. Poco fa sono arrivate anche le parole preoccupate del capo dello Stato. Tributi dolorosi al cambio climatico, ha detto Napolitano. Sono 8 i morti, un bilancio pesantissimo, vero Cristina Carpinelli? Sì, purtroppo tra l'altro è un bilancio provvisorio, come sentiremo anche tra poco dal collegamento con il nostro inviato Andrea Ferro. Si sta spostando velocemente verso sud la perturbazione di origine atlantica che ha colpito violentemente la Liguria orientale e la Toscana settentrionale, uccidendo 8 persone e 6 restano ancora disperse. 3 persone sono morte a Borghetto Vara, dove dall'alba è in corso l'evacuazione dei cittadini. Il paese è inondato di acqua e fango portati da un affluente del Vara. Tra i soccorritori presenti c'è una colonna della Protezione Civile arrivata da Alessandria e da Cuneo. Una donna è stata trovata morta in un'auto travolta dalle acque ad Aulla, Massa Carrara, dove è stato recuperato anche il corpo dell'altra vittima, un uomo che si trovava nello scantinato di casa, sempre ad Aulla. Proprio in questo paese sono circa 300 le persone evacuate a causa del maltempo e che da ieri sono ospitate al Palasport della cittadina. Ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Andrea Ferro. Sì, buongiorno, ora è ufficiale, sono 6 le vittime accertate a Borghetto, 1000 abitanti in Val di Vara, il comune più colpito. Si tratta di uomini e donne travolti dalle frane o annegati, ma purtroppo non è il bilancio definitivo. A Borghetto infatti si teme un'altra vittima, sarebbe la 7ª. Ascoltiamo il vice sindaco di Borghetto Vara, Franco Biggi. Sono su una ruspa e siamo in mezzo a nessuno. C'è un sacco di gente ma non fa niente nessuno, il tecnico ha mandato. Ci stiamo facendo qualcosa da soli, con qualche ditta, con le ruspe, con quelle cose lì. Borghetto praticamente non esiste quasi più. Il Vara ha allagato la parte bassa del paese e il Pogliaschina ha allagato tutta l'altra parte, completamente. Ad Aulla, in Lunigiana, come dicevi, da studio è confermata la morte di 2 persone. La notizia dell'ultima ora è che c'è un morto anche a Monterosso. Si tratterebbe del volontario disperso da ieri sera, siamo in attesa di conferme. Ora come ora altre 2 persone risultano disperse. Le Cinque Terre sono una delle perle del Mediterraneo, dichiarate patrimonio dell'umanità. Il paesaggio è scarnificato, sfigurato dal fango che ha coperto tutto. Ecco la voce di padre Antonio Giura dell'Istituto Padre Semeria di Monterosso. Pomeriggio di ieri alle 2 e stavamo andando via, però già non si poteva passare da nessuna parte, le frane avevano bloccato la strada, siamo tornati indietro, ma nella parte nuova a Fecina non ci siamo resi conto, nemmeno noi, del gran disastro che stava avvenendo nella parte vecchia. Tanta acqua, impossibile uscire, tutti questi valloni si sono riempiti di detriti vari ed acqua che veniva giù per 3-4 ore. E poi sono cominciati ad arrivare i primi turisti che erano rimasti bloccati in stazione, prima il gruppo degli italiani, abbiamo fatti cenare, poi francesi, inglesi, tedeschi, abbiamo assistito come potevamo. La situazione resta molto critica anche per i collegamenti, la Liguria è di fatto tagliata in 2, la linea ferroviaria Genova-Roma è tuttora interrotta tra Sestri, Levante e La Spezia. Poco fa, al termine di un vertice tenuto a Levanto, è stato reso noto che l'autostrada A12 potrebbe tornare percorribile solo a partire da venerdì. E per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro. Avete sentito, sono centinaia le persone isolate e ci sono anche grandi difficoltà nelle comunicazioni a causa del crollo dei ponti radio. È saltato il funzionamento di telefonia fissa e mobile, continuano ad arrivare segnalazioni di richieste d'aiuto da parte di persone, segnalazioni di frane, di allagamenti e di smottamenti. È in corso in questi istanti un'operazione di evacuazione di 10 bambini rimasti bloccati da ieri in un asilo a Rocchetta Vara. Li stanno portando via con un un elicottero dalla Marina Militare. Questa è la pagina di cronaca che fino adesso vi abbiamo raccontato, Anna Rita. E ti ringraziamo. Ringraziamo moltissimo Cristina Carpinelli per il lavoro svolto questa mattina. C'è questo fronte che ci hai raccontato, ma c'è anche un altro fronte, quello dei danni alle aziende. Una prima stima l'ha fatta l'Associazione degli Industriali. Il presidente di Confindustria La Spezia, Giorgio Bucchioni, racconta la situazione così al microfono di Valeria De Rosa. La situazione è particolarmente grave in alcuni punti specifici, come per esempio la vallata del Magra e la Val di Vara. Molte aziende sono andate sott'acqua. Ci aspettiamo interventi pesanti dal punto di vista del rallentamento produttivo. Nelle prossime settimane sicuramente ci sarà perdita di produzione e quindi di ricchezza. La cosa che amareggia è che ormai questo tipo di situazione si ripete da troppo tempo, tutti gli anni, senza che si riesca a porre un rimedio. Noi guardiamo anche con attenzione e cerchiamo di sollecitare gli enti pubblici ha una reattività che sia adeguata all'emergenza. Faccio un esempio per tutti: ci sono delle aziende che già stamattina hanno cominciato a ripulire le aree dal fango e la legislazione nostra prevede che il fango sia un rifiuto. Mi auguro che ci siano reazioni pronte da parte degli enti locali per individuare i siti dove buttare il fango che le aziende rimuovono dai loro impianti. Mi può dire anche quante aziende sono state coinvolte dal maltempo? Guardi, secondo le informazioni che abbiamo raccolto, che hanno raccolto gli uffici, abbiamo una trentina di aziende coinvolte e i danni sono importanti, valutabili nell'ordine dei milioni di euro. Adesso non certamente forse di centinaia, ma di svariati milioni di euro senz'altro. Il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli ha detto c'è un problema di mancata prevenzione. Dunque, inascoltati gli appelli che più e più volte ha lanciato anche il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gianvito Graziano, che è nostro ospite. Graziano, allora, purtroppo ancora qui a commentare l'ennesima alluvione, i morti, i dispersi, è il fronte prevenzione che manca. Sì, intanto buongiorno. Sì, purtroppo sì, la prevenzione prima di tutto, ma devo dire manca quella consapevolezza che il nostro territorio è veramente la più grande infrastruttura che l'Italia possieda. Eppure davanti a tutto questo, davanti a un ripetersi ormai continuo, ormai veramente è un dato non statistico, un dato, un continuum di problemi che si sviluppano dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, e tuttavia nessuna azione è stata messa in campo. Noi lamentiamo la mancanza di attenzione da parte del legislatore e soprattutto un qualcosa che possa portare a fare veramente azioni di prevenzione. C'è una legge che possa riordinare le competenze e possa una volta per tutte dare un segnale di svolta a questo paese, che manca di tutto, compreso anche di modelli di comportamento al riguardo. L'uso del suolo è diventato un fatto, come dire, comune, senza che nessuno capisca che utilizzare ulteriormente suolo arreca in qualche modo danno a tutto quello che sta intorno. Graziano, la collega Laura Bettini ha intervistato Stefano Sarti, che è il presidente di Legambiente Liguria, che si è proprio soffermato sulle colpe. Ascoltiamolo, poi lo commentiamo insieme. Soprattutto la cementificazione, nel senso che questo è un elemento, diciamo, che purtroppo dalle coste della Liguria si sposta un po' anche sulle colline, perché chiaramente anche i comuni dell'entroterra, avendo come introito gli oneri di urbanizzazione, tendono, diciamo, a urbanizzare pezzi di territorio che sono magari a rischio. La cementificazione toglie terreno permeabile e quindi l'acqua poi va dove non è mai andata. E accade più nello Spezzino che in altre aree della regione per qualche motivo? Ma lo Spezzino, perché noi abbiamo, diciamo, il più grande fiume, forse l'unico vero fiume di tutta la Liguria, che è il Magra, che comunque tende molto ad avere un carattere torrentizio. Graziano, dunque la zona dello Spezzino era già sotto osservazione? Sì, la zona dello Spezzino era sotto osservazione, un po' tutta la Liguria, che ha una conformazione morfologica che, insomma, lo rende particolarmente vulnerabile. Io vorrei aggiungere alle parole di Legambiente una precisazione che ritengo doverosa. Quando si parla di cementificazione, Probabilmente un po' nell'ideale collettivo si ha idea di qualcosa che viene fatto in maniera abusiva o comunque non conforme, invece molto spesso questa cementificazione è legata anche a una forma di infrastrutturazione del nostro territorio, quindi assolutamente dentro quelle che sono le attuali regole. Ecco, questo è un po' il nodo del problema. Le regole attuali sono state sviluppate su modelli diversi rispetto a quelle attuali. I nostri piani regolatori sono legati a leggi piuttosto vecchie, in Italia quella nazionale del 1942 addirittura, poi ci sono quelle regionali che sono degli anni 70-80. Ecco, allora quando io vado a realizzare una qualunque infrastrutturazione probabilmente dovrei utilizzare delle misure compensative perché quello appunto mi produce consumo di suolo, quindi impermeabilizzazione e cementificazione. Ma la legge questo non lo prevede, allora ecco perché bisognerebbe riguardarlo con una nuova ottica, con un'ottica moderna e andare in direzione di una tanto auspicata legge di governo del territorio. Grazie al presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gianvito Graziano. Il maltempo adesso si sta spostando verso il centro-sud, la situazione però a Roma al momento è tranquilla, vero Andrea Viali? Sì, è così, è di fatto cessato, possiamo dire, l'allarme per il maltempo a Roma, dove c'era il timore di nuovi nubi fragili dopo quello, lo ricordiamo, che giovedì scorso ha messo in crisi la città. Sulla capitale non piove più da qualche ora, ma nella prima parte della mattinata ci sono stati dei forti temporali che hanno colpito anche questa volta più che altro la zona del litorale. A Ostia alcune strade sono state chiuse per allagamenti, chiusa anche una fermata della linea ferroviaria Roma-Lido che poi è stata comunque riaperta. I temporali ora si sono spostati verso il Pontino e la provincia di Frosinone, il sud del Lazio, Lazio nel quale comunque la situazione secondo la Protezione Civile è sotto controllo. A te la linea. Grazie Andrea, e piove anche a Coriano dove dalle 9 è aperta la camera ardente per Marco Simoncelli. Accanto a me c'è Dario Ceccarelli. Sì, buongiorno Anna Rita, prosegue nella camera ardente a Coriano l'afflusso di amici e tifosi per salutare Marco Simoncelli, il giovane pilota morto domenica in Malesia. È una sfilata di gente semplice che conosceva Simoncelli per la sua simpatia, per la sua carica umana, oltre che per la bravura. Lo si capisce dai loro commenti, genuini e affettuosi. Sentiamoli dai microfoni di Sky. Io sono venuta qui con il cuore di mamma, anch'io ho due figli. È un grande campione. L'ultimo pensiero è che è veramente un ragazzo fantastico e molta gente gli vuole bene e gli ha voluto bene per questo. Secondo me l'unico che poteva essere l'erede di Valentino è stato perso così. Sempre in pista, sempre col gas aperto, sempre. E sempre col gas aperto, sì, un uomo coraggioso, un ragazzo simpatico. Domani ci sono i funerali nella chiesa di Coriano, ovviamente non potranno entrare tutti, si parla di decine di migliaia di persone, un'invasione di fan. Il comune ha invitato tutti a seguire il funerale dal maxi schermo sulla pista di Misano o da altri maxi schermi all'esterno, anche molte TV faranno la diretta. Non ci saranno fiori all'interno della chiesa, la bara di Simoncelli sarà sistemata tra due moto, una verrà portata da Valentino Rossi, l'altra da Matteo Pasini. E poi durante la cerimonia canterà il coro parrocchiale di Coriano e pare che la famiglia di Simoncelli avesse chiesto a Vasco Rossi di cantare una canzone, però la curia non ha accordato il permesso. Questa sera è in programma una veglia funebre nella cappella laterale della chiesa di Santa Maria. Le 13:18, ampia pagina dedicata nella prima parte del nostro GR al maltempo. Avete ascoltato anche gli aggiornamenti che arrivavano da strade in diretta. Al momento sono 8 i morti e 6 dispersi. Ha parlato anche il capo dello Stato. Tributi molto dolorosi, ha detto Napolitano, che purtroppo paghiamo ai cambiamenti climatici. Le piogge adesso si stanno spostando al centro-sud, preoccupano in particolare Calabria e Sicilia. L'altro tema in primo piano è Berlusconi, che oggi arriva a Bruxelles. C'è un accordo con la Lega ma senza le pensioni di anzianità. E poi c'è il fronte Pompei, gli scavi e i continui crolli. Oggi arriva il commissario europeo. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Oggi è la giornata, si celebra la giornata del risparmio, ma è anche la giornata della risposta italiana all'Europa sulla crescita. Allora noi partiamo da Roma, da Vincenzo Miglietta, che sta seguendo per noi la cerimonia della giornata del risparmio nel Palazzo della Cancelleria. Hanno parlato Draghi, ha parlato anche Tremonti. Vincenzo. Sì, buongiorno, è di fatto una promozione per la lettera di intenti che il Presidente del Consiglio Berlusconi presenterà oggi a Bruxelles, quella che arriva dal Governatore della Banca d'Italia Draghi, e lo ricordiamo, aspetto questo ancora più indicativo, dal prossimo 3 novembre presidente della BCE. La lettera all'Unione Europea, dice Draghi, è un passo importante, contiene un piano di riforme organico per lo sviluppo. Ma ascoltiamo il governatore. Lasciatemi dire che la lettera di intenti formulata dal governo italiano è un passo importante in questa direzione, è un piano di riforme organiche per lo sviluppo dell'economia italiana. Ora però si tratta di farle queste riforme, di farle con rapidità, di farle con concretezza, e non nascondiamoci, sono riforme coraggiose, quindi occorrerà tutelare le fasce più deboli della popolazione che da queste riforme saranno sicuramente toccate. Draghi parla poi dell'attuale situazione economica come confusa e drammatica, il suo omaggio quindi al Presidente della Repubblica Napolitano, punto di forza, spiega, per l'Italia. Il Ministro dell'Economia Tremonti, poi, l'aspetto più importante della lettera di intenti all'Unione Europea, spiega il responsabile del Tesoro, e il Sud, l'impegno sia del governo italiano ad utilizzare appieno i fondi europei per rilanciare il Mezzogiorno. Tremonti difende quindi le misure per la crescita e rivendica l'andamento del prodotto interno lordo del nostro Paese in media, dice, con gli altri del continente, è necessario avere più fiducia in noi e tra noi, conclude Tremonti. Infine il messaggio alla giornata mondiale del risparmio del Presidente della Repubblica Napolitano, per l'Italia, scrive il Capo dello Stato, è obiettivo fondamentale il recupero di uno stabile percorso di crescita della produzione e dell'occupazione da conseguire, spiega il Quirinale, congiuntamente a quello non più rinviabile dell'equilibrio dei conti e della riduzione del debito pubblico. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, una lettera all'Europa sarebbe già stata inviata, lo avete sentito, se ne è parlato anche a Roma alla cerimonia della giornata del risparmio, però non è ancora arrivata. Le borse restano in attesa mentre vola nuovamente lo spread tra BTP e Bund. La Merkel, che sta parlando al Bundestag, ha detto stamattina che bisogna cambiare i trattati europei e sanzionare in modo più forte chi viola sistematicamente il patto di stabilità. Il fronte europeo, allora, sentiamo gli aggiornamenti. L'Italia non è l'unico problema sul tavolo, ma in questo momento rappresenta quello più spinoso. Bruxelles ha chiesto impegni seri e concreti, Roma risponde con una lettera di 15 pagine in cui la tempistica latita. Non si vede il sole sul vecchio continente, tanto da spingere il presidente Sarkozy a dire che l'Europa non è mai stata così vicina all'esplosione. Quella di oggi doveva essere la giornata risolutiva, ma dietro l'angolo è in agguato un'altra delusione. Cancellato l'Ecofin, nel tardo pomeriggio si incontrano i capi di Stato e di Governo. A seguire, vertice dell'Eurogruppo. Ma il tempo scorre, al G20 mancano pochi giorni. I nodi da sciogliere sono sempre gli stessi, come potenziare il fondo salva stati, i criteri attraverso cui valutare i patrimoni delle banche, le perdite che gli istituti dovranno accettare per aiutare Atene. In più Berlino vuole mettere fine agli acquisti di bond da parte della Banca Centrale Europea. Questo è lo scenario in cui si incastra la lettera del governo italiano, una missiva di intenti in cui l'unico passo in ambito previdenziale è l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni. Per tutti. Poi misure su liberalizzazioni, privatizzazioni e semplificazioni normative, ma nessuna indicazione sulle date di approvazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pronta a tendere una mano all'Europa e all'Italia anche la Cina, Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Non sorprende, perché più volte le autorità cinesi hanno fatto queste affermazioni, o si hanno affermato la volontà di comprare bond europei, anche bond italiani. Sarebbe nell'interesse dei cinesi, alcuni bond sono prezzati molto bene, per cui sarebbe anche un ottimo investimento finanziario. Bisogna anche dire che è da un po' di tempo che i cinesi hanno la bocca larga, nel senso che dicono cose e poi non lo fanno. Questo è un recente sviluppo, perché di solito i cinesi hanno sempre avuto la bocca molto cucita, per esempio fecero una dichiarazione che avrebbero sostenuto i bond greci, e i bond greci andarono alle stelle per una settimana, poi caddero, fecero la stessa dichiarazione relativamente ai bond spagnoli, non se ne fece niente, per cui non sono sorpreso ma sono cauto. Sicuramente il giorno che l'Europa mette insieme un piano chiaro di ristrutturazione, evidentemente i cinesi potrebbero entrare, ma sarebbe un ottimo investimento finanziario per loro. E poi c'è il fronte interno, la politica interna con i riflettori sulla Lega per quanto riguarda le pensioni, ma oggi è esploso un altro caso, che è quello che riguarda il presidente Fini, che è intervenuto ieri in TV su Rai 3. Bagarre questa mattina nell'aula della Camera, pare che siano venuti alle mani deputati di Lega e Futuro e Libertà. Ma noi ci colleghiamo con la Camera, con Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, alla Rita, dopo l'accordo nella notte tra il premier Silvio Berlusconi e Umberto Bossi sulle pensioni, stamattina alla Camera scoppia la bagarra sul caso Fini. La Lega accusa il presidente di Montecitorio di parzialità dopo che a Ballarò ieri ha accusato la signora Bossi di essere una baby pensionata. Per il capogruppo del Carroccio Marco Reguzzoni, quella di Fini è stata una caduta di stile, e per questo la Lega ritiene che il leader di Futura Libertà debba dimettersi da presidente della Camera. Molti deputati della Lega e molti del PDL applaudivano e urlavano dimissioni. Due deputati, uno di Futura Libertà e uno della Lega, sono venuti alle mani. Si tratta di Claudio Barbaro e Fabio Ranieri. A quel punto la seduta è stata sospesa, ma sono volate le botte malgrado i commessi si siano interposti tra i due. La seduta quindi è stata sospesa ed è ripresa con un dibattito in cui il capogruppo PDL Fabrizio Cicchitto promette che ha intenzione di investire la massima autorità dello Stato, vale a dire il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, di una situazione di difficoltà. Ricordiamo invece che nell'accordo raggiunto nella notte tra Berlusconi e Bossi c'è l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni dal 2026, mentre non si toccano ancora le pensioni di anzianità. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta, noi siamo alla nostra rubrica Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha scoperto nella provincia di Roma affitti in nero per un imponibile non dichiarato di circa 3 milioni di euro e imposta di registro evasa per circa 500.000. Come sono scattate le ispezioni? Grazie alle segnalazioni al numero telefonico 117 della Guardia di Finanza. Si tratta di un numero di pubblica utilità che esiste da 15 anni, ma solo di recente ha avuto un'imprevista impennata di chiamate. Ormai le segnalazioni sono circa 100 al giorno, con un incremento rispetto all'anno passato di oltre il 20%. Le regioni che se ne sono servite di più sono quelle meridionali. In Campania e Calabria le telefonate sono aumentate di oltre il 30%, un dato che fa davvero ben sperare. Ma una segnalazione può essere anonima. Il colonnello Michele Dell'Agli, del Comando Generale delle Fiamme Gialle. Viene archiviata e viene custodita nel patrimonio informativo del corpo, però una segnalazione anonima non può entrare nel procedimento formale di constatazione e accertamento delle violazioni fiscali. Quindi in particolare per il settore tributario l'invito che rivolgiamo ai cittadini è di farsi riconoscere. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si è concluso con un pareggio 23-23 il voto non vincolante di oggi in Commissione Cultura alla Camera per la nomina a presidente della Biennale di Venezia di Giulio Malgara. Molto soddisfatto il ministro Galan, che andrà avanti con la nomina. Galan intanto è alle prese con il caso Pompei, con la visita oggi alle 15 del commissario europeo a Pompei dopo i crolli di ieri. Il problema, dicono gli esperti, non sono gli interventi straordinari ma la manutenzione ordinaria. 8 edifici su 10 sono a rischio, secondo il monitoraggio dell'Osservatorio Patrimonio Culturale. Il direttore Antonio Irlando è stato ospite questa mattina a prima edizione a Radio 24 al microfono di Anna Migliorati. Noi proprio in questi continui monitoraggi abbiamo stimato, questa è una stima aggiornata ed è anche una stima prudente, che l'80% dell'area di Pompei è a rischio crollo. Quelli di cui le cronache parlano sono le aree aperte al pubblico, nel senso aree dove tutti possono vedere se il crolla. Vostro monitoraggio è di tutta la zona? Di tutta la zona, case, quartieri, ma ci sono intere insule. Insule significa isolati, noi non abbiamo paura della pioggia che cade. La pioggia, ecco, viene evocata spesso, la pioggia talvolta è una concausa. Pompei rischia il commissariamento europeo in qualche modo o dell'UNESCO? Non possiamo più scherzare. Noi siamo stati dall'UNESCO ammoniti, cioè i commissari sono venuti, hanno valutato che non c'è un piano di gestione del rischio di Pompei, non c'è assolutamente un piano di conservazione e quindi di manutenzione ordinaria. Ed è tutto per questa edizione curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie regia a Pietro Lacorte. Vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce. Tutti gli aggiornamenti nella prossima edizione di GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.